Grazie Anto. Come stiamo? Questa è la mia prima volta che predico di sera, quindi vi chiedo, anche se non vi piace quello che dico, sorridete, mi aiutate un po'. È un onore essere qui e io voglio ringraziare il pastore che non c'è, ora mi mette il dubbio il fatto che lui non ci sia e mi ha lasciato a me, però è fiducia, credo, no? Io ringrazio il pastore per l'opportunità che mi dà di poter condividere quello che Dio ha messo nel mio cuore. Ringrazio anche e colgo l'occasione anche di prendere giusto un minuto per ringraziare. Siamo una chiesa fantastica e non lo dico giusto perché lo devo dire, ma perché veramente abbiamo tanto da dare ad altri e lo posso condividere per quello che abbiamo vissuto questa settimana a Mottola. E io voglio ringraziare tutte le donne della squadra pastorale, tutte le ragazze che si sono adoperate nel portare, sapete cosa? Questo Gesù che è vivo a tante donne a Mottola. C'era un evento di sole donne e abbiamo avuto la grazia di ospitare 30 donne di Mottola per un'oretta e mezza, e quello che abbiamo vissuto è stato vedere delle donne entusiaste, delle donne che hanno aperto i loro cuori, delle donne che si sono commosse, delle donne che sono uscite da quel luogo con una Bibbia in mano. Ed è così bello poter vivere tutto questo, e lo possiamo fare insieme. E io sono benedetto a essere parte, a essere qui, ma soprattutto a far parte di questa famiglia grande che è la nostra Chiesa. Quindi sorridi, perché chi ti sta a fianco è veramente un dono prezioso che Dio ha messo al tuo fianco. Amen? Ora, Gesù per tutti, no? Lo sappiamo bene, no? Qualcuno ha detto che, vabbè, lasciali stare lì, tanto non li seguirò. Non li seguirò, prometto. Gesù per tutti, no? Per 2 mesi, 3 mesi, forse lo rivediamo sullo schermo e forse pensiamo e commettiamo l'errore di pensare che è la visione di quest'anno. No, non è la visione di quest'anno. Questa è la visione che da 40 anni esiste qui a Modugno, da quando il pastore Pinuccio e Sofia hanno deciso di mettere in sesto questa famiglia. Non è mai cambiata la visione. Noi abbiamo quella visione di portare Gesù a tutti, questo Gesù che è vivo a tutti. E c'è una storia in particolare, come ha detto Antonio. Ora io voglio vedere le mani di chi c'era questa mattina. Posso vedere le mani di chi c'era questa mattina? Quindi, poche, quindi probabilmente ascolterete delle stesse parole che il pastore ha detto, oppure ascolterete cose diverse. Ma è troppo bella questa storia, perché parla proprio di Gesù per tutti. E lo vogliamo leggere, se il team Power, non ridete, Noemi. Allora, ok, pronti? Marco 5, e dice: giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato, neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotti e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percotendosi con delle pietre. Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti e a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi». Gesù, infatti, diceva: «Spirito immondo, esci da quest'uomo». Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?». Egli rispose: «Il mio nome è Legione, perché siamo molti». E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. C'era là un gran branco di porci che pascolava sul monte. I demoni lo pregarono dicendo: «Mandaci nei porci perché entriamo in essi». Egli lo permise loro. Gli spiriti immondi, usciti, entrarono nei porci e il branco si gettò giù a precipizio nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. E quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. quelli che avevano visto raccontare loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e al fatto dei porci, ed essi cominciarono a pregare che Gesù se ne andasse via dai loro confini. Come gli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse: va a casa tua, dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui, e tutti si meravigliarono. Ora, questa credo che un po' tutti noi l'abbiamo letta, e io fino a qualche settimana fa, quando leggevo questa storia, erano due semplicemente le cose che mi venivano in mente. Beh, la prima è che Gesù aveva autorità su quello che oggi è considerato il nostro nemico, e che è il diavolo. Sapete, lo si può vedere da come Gesù gli dice qual è il tuo nome e parla singolarmente. E loro erano una legione, e cioè dai 4 alle 6.000. E per Dio non ha differenza o uno o tanti. Lui ha già vinto, il diavolo. Amen? Ok, questa era la prima considerazione che in maniera veloce consideravo leggendo questa storia. La seconda era la condizione di quest'uomo. Era un uomo che sicuramente era posseduto, sicuramente era turbato, era tormentato. Quello che lui faceva di notte e di giorno era correre su per i monti, e la sua dimora era un cimitero. Questo era quello che inizialmente, fino a qualche settimana fa, leggevo di questa storia. Però col tempo, cioè, il pastore mi ha sempre detto di leggere la Bibbia poca ma lentamente, poca ma lentamente. Ed è quello che ho fatto, perché volevo di più. Sapevo che c'era di più in questa storia, e Dio ha rivelato questo, no? Nella mia preparazione. Ha rivelato qualcosa di molto speciale, e credo che sia speciale anche per tutti noi questa sera. E lo vorrei condividere. Ora, quello che farò sarà dividere in 3 punti. Voi dite: perché in 3 punti? Semplicemente perché ho detto: beh, Noemi ha fatto il percorso 3, quindi percorso 1, percorso 2, percorso 3. Nel percorso 2, per chi ha frequentato il percorso 2, sa che ci sono dei 3 pilastri della nostra Chiesa, che è lo stare, il fare e dare. Sapete perché? Perché hanno un qualcosa in comune queste cose, e cioè che hanno un ordine. E i punti sono: Gesù viene, Gesù salva e Gesù ti dà una chiamata. Non puoi tu avere una chiamata senza prima conoscere Gesù. Non puoi tu fare il percorso 3 senza aver fatto il percorso 1, semplicemente perché le materie o gli argomenti potrebbero risultarti pesanti o non comprensibili, semplicemente perché non sai quelle che sono le fondamenta, le basi della vita del cristiano. Quindi anche Gesù dà degli ordini, dà una scaletta ben precisa. E quindi sono questi 3 punti. Quindi vai alla persona che ti sta di fianco e di: Gesù viene, Gesù ti salva e Gesù ti dà una chiamata. Ok, perfetto. Ora li scopriremo insieme. Scopriremo il primo: Gesù viene. Allora, sto Gesù viene, per comprendere questa intenzionalità che Gesù ha, si deve andare alla storia precedente. Ora, quanti conoscono la storia precedente? Nessuno, vabbè, no, non vi metto in imbarazzo, la dico io. Era quella della tempesta, ve la ricordate? Vi ricordate quello che dice Gesù ai discepoli? Prima, vabbè, ve la dico io: passare dall'altra riva. Ora, per noi può sembrare insignificante questa parola, può sembrare semplicemente passare da un posto all'altro, addirittura viene usato, e spesso lo uso io, per incoraggiare le persone e dire: guarda, è il tempo di passare all'altra riva, perché ci sono nuovi territori, nuove conquiste. In realtà a quei tempi per i discepoli non era una bella frase da sentire, passare all'altra riva. E ve lo voglio spiegare facendovi mostrare un po' una cartina, se il Team Power mi aiuta. Oh, perfetto. Ah, c'è metà, la Decapoli, la parte destra, veniva chiamata Decapoli, e dove viveva quest'uomo che non sappiamo nemmeno il nome. Dall'altra parte invece c'è la Galilea, la Samaria, e qui Gesù passeggiava, guariva, predicava il Vangelo. E quello che invece succedeva nella Decapoli era semplicemente che era una regione, erano 10 regioni che erano sotto il dominio dell'impero romano. Ora, quello che succedeva in questa parte è che non si poteva adorare Dio, non si poteva entrare nelle sinagoghe per pregare Dio, non si potevano riunire per parlare di Dio, ma quello che c'era erano semplicemente delle filosofie greche, erano dei culti pagani, e quindi potete capire che in assenza di Dio lo spazio viene occupato da qualcun altro. Ed ecco perché si comprende anche il perché di quest'uomo che era posseduto. Mentre dove vedete il Mar di Galilea, era proprio la parte dove c'è la tempesta, dove si verifica la tempesta. E Gesù dice ai discepoli: ok, ora passiamo dall'altra riva. E poi pensate un po', i discepoli cosa hanno pensato? Cioè, noi stiamo andando in un posto dove noi non siamo ben visti, dove noi rischiamo la vita. E tu ci stai dicendo di passare all'altra riva? Beh, in realtà Gesù fu intenzionale, perché aveva visto un potenziale dall'altra parte della riva e aveva visto un potenziale che altre persone non sono riuscite a vederla. Così questa sera Gesù è disposto a passare dall'altra riva per incontrare te. Perché sapete, Gesù viene per stare con noi. Gesù non viene per darti solo la salvezza. La prima cosa che Gesù fa è perché vuole stare con noi. Vuole stare con me e vuole stare con te. Zaccheo. Quanti conoscono la storia di Zaccheo? Gesù vide Zaccheo e lo vide salire su un sicomoro. E disse: ehi Zaccheo, scendi, perché? Non ha detto scendi perché ti devo dare la salvezza, ma ha detto scendi perché quest'oggi mi devo fermare a casa tua. Pesca miracolosa. Gesù sapeva di quella nottata passata senza aver raccolto nessun pesce. E Gesù lo sapeva, Gesù poteva fare ogni cosa. Gesù poteva indicare, stando a riva, Simone e dire: ok, spostati al largo, prendi il largo, butta le reti a destra e vedrai che pescherai. No, noi leggiamo che Gesù è entrato nella barca di Simone e poi ha detto: prendi il largo perché voglio stare con te. Nella stessa maniera Gesù questa sera, prima di ogni altra cosa, vuole stare con te, vuole stare con me. Perché? Perché vede un potenziale in te, che probabilmente altri non stanno vedendo. Gesù vuole incontrarti nel posto dove tu sei, nella condizione dove tu sei. Gesù vede in te un potenziale, non un legame. Gesù vede in te un potenziale, non una schiavitù. Gesù vede in te la tua libertà, non il tuo peccato. Gesù, quando viene e ci guarda, ci vede come noi possiamo essere in Lui e possiamo diventare in Lui, non per quello che siamo o per quello che siamo stati. Gesù vuole venire e vuole stare con te non solo la domenica, non solo quando ci sono i gruppi, non probabilmente quando devi servire in chiesa, non probabilmente quando devi seguire semplicemente un insegnamento, ma Gesù vuole stare insieme a te ogni giorno, il lunedì, il martedì, il mercoledì, nella tua situazione. Quella più brutta che tu stai vivendo, Lui ha desiderio di stare con te. Ed è un qualcosa che abbiamo noi bisogno, non Lui. Noi abbiamo bisogno di stare con Lui. E l'incontro con Gesù porta sempre uno scossone. L'incontro con Gesù non lascia mai così come era prima. Cambia tutto. Cambia ogni cosa. Sapete, quest'uomo, che non sappiamo il nome, c'è scritto che prima era tormentato, che correva su per i monti, sopra e giù, sopra e giù. Nessuno poteva domarlo. E poi troviamo, dopo questo incontro con Gesù, lo troviamo seduto addirittura. Lo troviamo seduto. E a me mi dà l'immagine di pace. Quando uno è seduto perché ha pace. E lui aveva realizzato la pace di Cristo. Quell'incontro ha portato una salvezza e ha portato una trasformazione. Ha portato pace. Vediamo che lui è seduto. E la pace di Cristo non è la pace che il mondo ci dà. La sua pace è una pace completa. In Luca è scritto che era nudo, si stracciava le vesti. E qui lo troviamo invece vestito. E a me mi piace questa definizione, perché mi dà l'immagine dell'identità che Gesù ci dà. Ci dà un vestito nuovo, ci dà un'identità nuova, non più forestiero, ma parte della famiglia di Dio. Ed è buono che noi ci ricordiamo di questa identità e non dimentichiamo la nostra identità che abbiamo in Cristo Gesù. Qualsiasi sia la situazione che tu e io possiamo vivere, quello che fa la differenza è dove sono i nostri occhi, se è all'identità nuova che Dio ci dà, oppure ci dimentichiamo di quell'identità. Quest'uomo non se n'è dimenticato. Quest'uomo ha ritrovato un vestito nuovo, e poi c'è scritto che da essere pazzo era sano di mente. Che bello! Un po' tutti siamo stati pazzi nella vita, no? Io mi rivedo molto in quest'uomo, anzi potete scrivere pure Giovanni se vi va di ricordarvi, perché mi vedo molto io in questa storia. Da essere pazzo è diventato sano di mente. Wow! Quello che succede quando noi incontriamo Gesù, quando noi riceviamo salvezza, è che i pensieri cambiano. I nostri pensieri vengono sostituiti dai pensieri di Cristo. E non è bello questo? Non è bello poter avere nella nostra mente i pensieri di Cristo? Quando Gesù viene, non fa di noi persone nuove con pensieri vecchi. Quando Gesù viene, fa di noi persone nuove con pensieri nuovi. E io non so, tu che sei qui, non so qual è il tuo peccato che ti rende schiavo, non so qual è la tua depressione che ti rende schiavo, non so qual è il tuo senso di fallimento, non so qual è la tua condizione, non so cosa ti lega, non so quale bugia ti tiene schiavo. Ma una cosa so, è che oggi è l'occasione giusta per ricevere salvezza. Perché questo Gesù che è vivo ha scelto, non l'hanno ucciso, ha scelto di salire su quella croce e morire per noi e vincere il male, vincere il peccato, vincere il vizio, vincere ogni cosa che ci porta a noi a essere legati. E abbiamo cantato, no? C'è una canzone, rompi le catene, no? Gesù rompe le catene, se noi glielo permettiamo. E tu questa sera hai la possibilità di scegliere, di vivere una vita vittoriosa, non di parlare solamente di parole di vittoria. C'è una grande differenza parlare con parole di vittoria e vivere una vita vittoriosa. Quest'uomo è riuscito a vivere questo. E sapete cosa ha fatto? Mi piace perché dice, la prima cosa che fa, una volta che incontra Gesù, una volta che riceve la salvezza, va da Gesù. Gesù stava andando via, stava salendo su quella barca e stava ritornando dall'altra parte della riva. E quest'uomo gli si prostra e gli dice, Signore, fammi stare con te. Che bello, no? Giusto, cosa c'è di male? Io nel pensare a questa storia, beh, lui ha fatto la normalità. Ha detto, perché stare qua in un posto dove non si riesce ad adorare Dio, dove non si può entrare nelle sinagoghe? Io me ne vengo con te, vengo dall'altra parte della riva e posso adorare Dio, posso parlare di te in maniera libera, posso stare con te. E Gesù, c'è scritto, lo impedisce. Cioè praticamente Gesù dice no, e forse è una delle poche persone che gli fa questa proposta a Gesù. È quest'uomo che fa una proposta a Gesù di dire posso stare con te. E stranamente, e risulta strano, che Gesù gli risponde di no. No. Ma. E io ho dovuto pensare un po' alla mia vita. Quanti di noi hanno ricevuto un no da Gesù? Posso vedere le mani? Poche. Pochissime. Io ne ho avuti diversi. Uno in particolare, me lo ricordo come se fosse ieri, credo 5 anni fa ero a Torino, e a Torino ho incontrato Gesù, a Torino ho iniziato a vivere una famiglia che parlava di Gesù, e stavo bene. Erano 5 anni che stavo a Torino, era la mia seconda casa, era tutto bello. Ho incontrato Gesù, avevo una famiglia, avevo preso delle decisioni per Gesù ed era tutto bello. Ma poi è arrivato un tempo dove ero davanti a un bivio e l'unica cosa che io potevo fare era chiedere a Gesù qual era la strada giusta per me. Però in realtà non mi sono espresso in questa maniera, ma io dicevo a Gesù quello che volevo fare io e dicevo, Gesù, io voglio stare qua. Gesù, io voglio stare a Torino, perché devo andare giù? Perché devo andare con la mia famiglia, nei miei amici che sono lontani da Dio e tutte le persone che mi conoscono e non sanno che io ho fatto questa esperienza? Fammi stare qua. È tanto bello qua. Ho il mio ambiente bello. Ho accettato te a Torino. Ho una famiglia bellissima a Torino. Posso uscire la sera e posso parlare semplicemente di te ed è tutto bello. E il Signore mi ripeteva no, no. E sapete una cosa? Io ho imparato a gioire dei no che Gesù mi dà. E la gioia è questa, quella di poter stare nel mio paese, affrontare i miei amici, parlare di cosa Gesù ha fatto, poter stare nella mia famiglia, nei miei parenti più stretti e raccontare quello che Gesù ha fatto. E io prego che noi possiamo imparare a gioire dei no di Gesù, perché Lui è il meglio per noi. Quando Gesù dice no, è perché c'è qualcosa di più grande per noi. E io oggi lo posso testimoniare. Oggi vivere quello che io vivo è qualcosa di più grande di quello che io potevo pensare stando a Torino. Impara a prendere i no di Gesù e a gioire. E a gioire. Quest'uomo, che non conosciamo il nome, ma chiamiamolo Giovanni, ha incontrato Gesù, ha incontrato la salvezza, perché quello che fa Gesù è porta salvezza, e poi Gesù dà una chiamata. Gesù dà una chiamata e dice, no, non venire con me, rimani qua, rimani nella Decapoli. Cioè in questa Decapoli dove era vietato parlare di Dio, dove non c'era possibilità di poter parlare di Dio. E la domanda che ti faccio, qual è la tua Decapoli oggi? Il tuo posto di lavoro può essere la tua Decapoli. La scuola può essere la tua Decapoli. La tua famiglia può essere la tua Decapoli. Ora, non tutti siamo chiamati a predicare, non tutti siamo chiamati a suonare, non tutti siamo chiamati a cantare, Pastore Pinuccio se ne faccia una ragione, ma tutti, e dico tutti, abbiamo una chiamata in comune, ed è quello di portare Gesù dove ancora non c'è. Questa è la mia chiamata, ma è anche la tua chiamata. E sapete, c'è una statistica, purtroppo non sono riuscito a mandare un video, però c'è una statistica che parla di morti, brutto, no? Però a volte è buono che noi ci confrontiamo con queste realtà. Sapete, al giorno al mondo, nel mondo, muoiono 160.000 persone. Facendo una media, 2 al secondo. Io sto parlando? 2, 4, 6, 8. Ora, probabilmente ti stai chiedendo, vabbè, ma a me non mi interessa perché stai parlando del mondo in generale. Sì, però sapete, mentre scorrono i secondi, purtroppo ci possono essere i nostri parenti, ci possono essere i nostri vicini di casa, ci possono essere i nostri amici, e c'è una necessità. C'è una necessità. E Gesù questa sera sta guardando ogni sedia e sta vedendo un potenziale. Così come lo ha visto in quell'uomo, ha visto un potenziale dove altri non riuscivano a vederlo. Tu hai una chiamata. E l'ubbidire a quel no, perché qui si tratta di ubbidienza, perché probabilmente quest'uomo si poteva anche rifiutare e dire come no? Perché me lo stai impedendo? Lui ha ubbidito a quel no. E io voglio imparare ad ubbidire ai no. Perché ubbidendo ai no io posso credere, al di là del tempo che passerà, io posso credere che non Mottola, ma una provincia intera può accettare Gesù. E non so dove vivi tu, ma se vivi a Modugno, io prego per te che tu possa vedere non Modugno, ma la provincia di Bari venire a te e venire a Gesù. Quello che quest'uomo ha iniziato a fare è parlare alla sua famiglia. Non alle folle, non ha preso la cassa e il microfono e ha iniziato a predicare dalla Genesi fino ai tempi di Gesù. A volte commettiamo un errore anche noi, anche quando ci rapportiamo con le persone. A volte vogliamo fare gli spiritualoni e raccontiamo la Genesi all'Apocalisse alle persone. La gente è stanca di sentire parole. La gente ha bisogno di vedere i fatti. La gente ha bisogno di vedere che Gesù vive dentro di noi. Inizia dalla tua famiglia, inizia dal tuo vicino di casa. E questo porterà a qualcosa di grande. Il tuo Gesù che vive dentro di te è un Gesù che ha sconfitto il diavolo. Nella lettera in Giacomo è scritto: sottomettetevi dunque a Dio, resistetegli al diavolo ed egli fuggirà. Tu sei più che vincitore in colui che vive dentro di te. Tu puoi ricevere questa sera un incontro con Gesù, se non l'hai mai fatto. Puoi ricevere salvezza, perché Gesù porta salvezza. Gesù cambia le nostre vite. E quando noi viviamo questo incontro con Gesù, quando noi viviamo la salvezza, quando noi godiamo della sua presenza, quando noi godiamo del suo amore, allora Gesù ci equipaggia per portare avanti quello che Gesù ha lasciato stesso. Sapete, noi siamo la sua Chiesa e noi abbiamo il privilegio e la grazia di continuare quello che Gesù ha fatto. Non per i tuoi meriti, non per le mie forze, ma per quello che Lui riesce a vedere in me, quello che Lui riesce a vedere in te. E Lui questa sera ti vuole incoraggiare. Ti vuole incoraggiare. Se hai ascoltato da tempo i no di Gesù, è perché ti vuole dare qualcosa di meglio. Se stai soffrendo nella tua decapoli, se intorno a te vedi solo buio, non ti arrendere. Non ti arrendere, ma fin quando sei lì, è il posto giusto che Gesù vuole che tu stia. Devi solo fidarti di Lui. Sapete, la storia non finisce così. Mi piace di Dio perché la Bibbia è bella, perché non lascia mai le cose a metà. Mai. Sapete, non finisce con il verso 20 questa storia. C'è molto di più. Volete scoprire? Marco 7, Gesù, abbiamo letto in Marco 6, in Marco 5, che va via, risale sulla barca e impedisce a quest'uomo di andare con lui. Ma al verso 7, più avanti, Gesù partì di nuovo nella regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea, attraversando il territorio della... Cos'era la Decapoli? Dov'era la Decapoli? Territorio di quell'uomo, no? Dove viveva lui, dove tutto era vietato. Marco 8, in quei giorni, e ci troviamo sempre nella Decapoli, dove tutto era vietato, in quei giorni c'era di nuovo una... la folla, e poiché non avevano da mangiare, Gesù, chiamato a sé discepoli, disse a loro: io ho pietà di questa gente, poiché da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Se li rimando a casa digiuni, verranno meno per strada, perché alcuni di loro sono venuti da lontano. Una sola persona in tutta la Decapoli ha incontrato Gesù, ha ricevuto salvezza, ha ubbidito a quel no e soprattutto ha ubbidito alla chiamata e ha sentito l'esigenza di poter fare cosa? Di testimoniare quello che Gesù aveva fatto. Sapete, la tua guarigione non è per tenerla solo per te, non avrebbe senso. La tua guarigione che ricevi è per gli altri. La tua salvezza, la mia salvezza, non è per tenerla dentro il mio cuore e basta, ma la mia salvezza è per darla agli altri. La mia liberazione non avrebbe senso se rimane solo dentro di me, ma la liberazione che Gesù mi dà è per gli altri. Quello che quest'uomo aveva fatto era trasmettere i suoi miracoli che Dio gli aveva fatto, che Gesù gli aveva fatto, li ha trasmessi agli altri. Una sola persona ha creato l'effetto domino. Vi ricordate la predica del pastore? Effetto domino. Quest'uomo è riuscito a portare non una persona, ma una folla grandissima. E sapete, Dio prega questo per me e per te, che noi possiamo vivere, io voglio vivere come quest'uomo. Io voglio ubbidire al no, anche se i miei occhi vedono cose strane, anche se i miei occhi vedono cose che dico: ma può essere possibile? Dio mi dice: sì, tu fai e di quello che io ho fatto a te, e io farò di te una persona che porterà le folle. E questo non è solo per me, ma è per ciascuno di noi. Sapete, a volte noi come Chiesa ci stiamo muovendo per fare diversi eventi. Abbiamo sentito la festa del papà, poi ce ne saranno tante altri eventi. E a noi non interessa il numero. Basta anche una sola persona. Ma se quella persona incontra Gesù, riceve salvezza e obbedisce alla chiamata, lui potrebbe essere quella persona che porta le folli. Tu, io, abbiamo un potenziale e Gesù lo sta vedendo. E tu sei uno strumento nelle mani di Dio. Al di là della Decapoli che tu puoi vivere, tu hai Gesù. Tu puoi raccontare quello che Gesù ha fatto. E quelle persone, quella folla, sapete qual era? Era la folla che pregava Gesù di andare via da quel posto. Quella folla, nell'ascoltare quello che era successo, in realtà ho pensato anche un po' a questo, forse erano dispiaciuti dei 2000 maiali che erano caduti dal precipizio, forse anche per quello, probabilmente. Però pregarono a Gesù di andare via, quelle stesse persone. E forse nella tua famiglia c'è una persona che rifiuta il tuo parlare di Gesù, non ti stancare. Non ti stancare, perché questa storia ci incoraggia. Perché le stesse persone che hanno pregato che Gesù andava via sono ritornate e sono state 3 giorni. 3 giorni alla presenza di Gesù. Cercavano di stare con Gesù. Anche oggi noi possiamo vivere tutto questo. Tu sei stato chiamato per fare grandi cose. Tu sei chiamato per fare grandi cose e soprattutto per vedere le grandi cose. E Dio le ha preparate. Gesù dentro di te vede un potenziale. E io vorrei invitare tutti quanti ad alzarci in piedi, a chiudere i nostri occhi e a pensare anche a quella che può essere la nostra Decapoli. Forse sei scoraggiato perché non stai vedendo i risultati, forse sei scoraggiato perché all'interno della famiglia non vedi dei miglioramenti o non vedi delle persone che si aprono con te. Ma Dio ti vuole incoraggiare questa sera. Ti vuole incoraggiare a non rinunciare. Continua. Continua a raccontare le meraviglie che Gesù ha fatto nella tua vita. Perché Lui è un Dio generoso. E credo che questa sera tutti quanti noi possiamo alzare le nostre mani e dire sì, Dio ha fatto tante cose nella mia vita. Inizia a raccontare. Non ti stancare, ma inizi a credere che quel potenziale che Dio vede in te porterà frutto un giorno. E noi vogliamo vedere la nostra chiesa piena dei nostri familiari, piena dei nostri amici, piena di persone che accetteranno Gesù. Gesù è per tutti. Il suo amore è un amore inclusivo, che include tutti, nessuno escluso. E tu sei quella persona, io sono quella persona per portare quell'amore fuori, non per stare qui. Qui è bello, si sta, si prende, si dà, però poi possiamo uscire fuori e raccontare le meraviglie che Dio ha fatto. Ora pensa alla tua Decapoli, pensa al tuo posto di lavoro, pensa alla tua famiglia, pensa alla tua scuola. E forse se fino ad oggi sei rimasto deluso, io spero che Dio, e prego che Dio ti possa incoraggiare a continuare, a non arrenderti, perché Dio vede un potenziale dentro di te. E forse nemmeno tu stesso lo riesci a vedere, ma Dio lo sta vedendo. E Gesù vuole usare quel potenziale per portare tante altre persone. Amen? Vogliamo pregare? Padre, ti ringraziamo prima di tutto perché sei buono, grazie perché tu ami la tua chiesa, grazie perché tu sei disposto a passare dall'altra riva per incontrare noi. E noi ti ringraziamo per come tu ogni giorno scegli di incontrarci, per come ogni giorno scegli di vivere una relazione con noi, di vivere un'intimità con noi. Grazie Padre perché tu sei colui che ha mandato suo figlio Gesù a morire su quella croce per darci una vita vittoriosa. Signore, sappiamo che il diavolo viene per rubare, distruggere e ammazzare, ma tu sei venuto affinché noi potessimo vivere una vita abbondante. Signore, io prego che noi come chiesa possiamo vivere quelle vittorie che tu hai preparato per la nostra vita, Signore, che noi possiamo vivere in ubbidienza a te, qualora tu ti dici no, qualora tu ci chiami a fare determinate cose. Signore, io prego che la nostra vita possa sempre più dipendere da te e che noi possiamo essere quel talloncino che a effetto domino può portare folle a te. Signore, io prego che noi possiamo iniziare dal piccolo, dalle nostre famiglie, dalla nostra Decapoli, che può essere la nostra scuola, il nostro posto di lavoro. Signore, io prego che i nostri occhi possano vedere come i tuoi occhi vedono le persone e non come noi possiamo vedere gli altri. Signore, ti prego che la nostra relazione con te possa essere sempre più intima, che noi possiamo realizzare sempre più quelle che sono le tue promesse per la nostra vita. Grazie Signore, perché tu ci prometti che folle verranno a te, noi vogliamo crederci, noi vogliamo essere una chiesa, Padre, che crede, Padre, che tu sei colui che può fare queste cose, ti vuoi servire di noi, ed è così una grazia tutto questo, così un privilegio poter servire te e poter aprire il nostro cuore e poter far entrare il tuo amore per poterlo trasmettere agli altri. Signore, grazie perché tu questa sera vuoi liberare, grazie perché tu questa sera, Padre, vuoi salvare, grazie Padre perché tu questa sera vuoi spezzare quelle catene, grazie Padre perché tu vuoi portare liberazione qualora ce ne fosse bisogno, Signore. E io ti ringrazio, Gesù, perché la tua parola è efficace, ti ringrazio, Signore, perché la tua parola è viva, grazie Padre perché dove c'è morte tu porti vita. Amen.